sotto un cielo mozzafiato che trabocca di colori. È qui che ho lasciato tutti i miei pensieri. A volte vivi dentro una tempesta che ti travolge ingiustamente, ma grida, grida, c'è sempre qualcuno che ti sente. E senti come cambia, e cambia il vento e gira intorno, ascolta e se ne va. Soffia il vento, soffia, e il mio cammino non si ferma. E se il mondo in due si spacca, io vedo ancora, ancora una speranza. Troverò il modo per portarvi accanto, portarvi dentro ogni mio ricordo. Non si cancellano le pagine, ho scritto trovando un senso, sono i passi che muoverò. Sfoglio questo mio racconto, resta sempre vivo in me. Soffia il vento, soffia, e il mio cammino non si ferma. E se il mondo in due si spacca, io vedo ancora, ancora una speranza. Soffia il vento, soffia, e spazzerà via questa fitta nebbia. E se il mondo in due si spacca, non finiranno i passi di una vita. Il cammino non si ferma, e se il mondo in due si spacca, non finiranno i passi di una vita. Soffia il vento, soffia, e spazzerà via questa fitta nebbia. E se il mondo in due si spacca, io vedo ancora, ancora una speranza.